strada. Perché ti allontani da me sempre di più? Se qualcuno dirà che è finita fra noi, sbaglierà, perché t'amo per sempre, ti amo. La la la la la la la la la la. Caraci, io partirò, volerò nel cielo blu. Resta ferma così, dimmi, mi aspetterai, amor? Occhi nel blu tufferò per te e scoprirò nuovi mondi che là mi fermerò e fra le stelle cercherò la felicità che sulla terra non c'è più. Occhi nel blu tufferò per te e pregherò solo Dio per noi. Quando oggi io tornerò, se tu vuoi verrai con me. Lascia tutto qua giù, vola nel cielo blu con me. Occhi nel blu tufferò per te. Là mi fermerò e fra le stelle cercherò la felicità che sulla terra non c'è più. Occhi nel blu tufferò per te e pregherò solo Dio per noi. Fermerò e fra le stelle cercherò la felicità che sulla terra non c'è più. Occhi nel blu tufferò per te e pregherò solo Dio per noi. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Signora troppo sola, questa sera un uomo ti ha cercata, era previsto eppure ti è emoziona un po'. Signora di una sera, non dire no. Signora di una sera, chissà com'è, ma un'altra volta bella vuoi essere anche tu. Non è solo a vent'anni che viene primavera, e ballerai e riderai delle sciocchezze che racconterà, e riderai e sognerai e troverai complicità, e lui dirà e lui sarà perfetto come dice l'agenzia, per una sera di compagnia. Domani sì, domani no, domani è un giorno che non c'è, e non è questo il tempo delle favole. Domani qui, domani là, ma questo è un principe corsaro, con lui ti costerebbe caro vivere, vivere, vivere, perché? Per chi vincersi, perdersi. Sola, questa sera il mondo si colora, un'ora ancora già ti senti accendere. Signora di una sera, chissà cos'è, signora di una sera, che colpa è volere dire basta al tempo che va via, volere una carezza, anche la più leggera, e ballerai e riderai che racconterà, e riderai e sognerai e troverai complicità, e li dirà e li sarà perfetto come dice l'agenzia, per una sera di compagnia, e ballerai e riderai e riderai e sognerai. Ballerai e riderai. Se non corri tu potrai vedere le cose belle che stanno intorno a te. Non sai che in un fiore potrai trovare in mezzo ai sassi un diamante tutto per te. Non sai che in un fiore c'è un mondo pieno d'amore, non sai che nei miei occhi c'è amore per te. Potrai capire che hai corso tanto, ma sei rimasto sempre qui. Non sai che io

lontano da lui. Quando ritorni amante e nasci e muori accanto a me. E aggiunge che mai lontano da lui potresti vivere neanche un momento, che prima di lui e dopo di lui in tanto tempo tu non hai trovato niente. Mentre istante dopo istante noi ci ritroviamo amanti, ci scopriamo, noi ci inventiamo dei rimorsi, ci spogliamo e voliamo in alto e restiamo indietro con le nostre mani complici. Mi parla di te. Parla di te, non ha capito ancora niente di noi. Davvero non so se ancora potrò tenermi dentro questo bene così grande. Scopriamo, noi ci inventiamo dei rimorsi, ci spogliamo e voliamo in alto e restiamo indietro con le nostre mani complici. Mi parla di te. Mi parla di te. Ancora di te. Ciao, ciao, ciao, tengo que partir. Tu sol y tu mar, nunca he de olvidar. Adiós, mi palma, me voy de aquí. Quizás pueda volver junto a ti. Ciao, ciao, ciao, yo me alejaré. Tu playa al dejar no quiere mirar. Pues sé que si te vuelvo a ver ya no podré marchar jamás. Día tras día más lejos la nostalgia sentiré de aquel tiempo feliz, mi voz será un lamento que va a llevarte el viento. Día tras día pensando stare, e che pronto è de volver a mi palma por fin, porque io necesito de ti. Ciao, ciao, ciao, io me de alejar, mas pienso che tu me perdonarás, porque al regresar a ti no volveré a marchar jamás. Marchar jamás, porque al regresar a ti, a quei capelli tutti in giù, ma non sei tu. Agli occhi tristi come te, ma non è te davvero. Usa un profumo come il tuo, ma non sei tu, ma non sei tu. Le ciglia lunghe come te, ma non è te sicuro. Quando la notte lei si stringe a me, se il mio corpo c'è, te. Tu mi rubi l'anima, ma poi la getti via da me. Io la inseguo e trovo sempre te. Lei crede solo a quel che ha, ma non ha un me sicuro. Ho visto rondini lassù, cadere giù, erano sole come me, che non ho te davvero. Quando nel letto dorme accanto a me, se il mio corpo c'è, la música.

se mai più sarò felice come quando c'eri tu. La vita continuerà, il mondo non ti perderà. Non pensare a me, il sole non si spegnerà con te. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Cammina insieme a me.